Sì, l'ho già chiamato. Sì, arriva. Al professor Pietro De Vitis, preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Chieti, non va presentato anche perché già ieri sera ha partecipato con un suo contributo alla tavola rotonda, tra l'altro molto bello, ribadiamo, insomma, siamo tutti soddisfatti. Tra l'altro ha pubblicato tra le numerose pubblicazioni, già ieri sera si faceva riferimento ad Heidegger e la fine della filosofia. Qui mi piace anche ricordare un'altra opera del professor De Vitis, Ermeneutica e sapere assoluto, tra l'altro pubblicato con un'editrice di Lecce, quindi del Sud, merita, ecco, di essere ricordato. Credo che un lavoro che ha avuto abbastanza successo, ha cambiato parecchio. Ecco, e la relazione del professor De Vitis sulla tematica del sacro in Heidegger, gli diamo senz'altro la parola. Ecco, subito dopo ridistribuiamo il tempo, possibilmente tra due comunicazioni, di due colleghi amici che tra l'altro hanno bisogno di anticipare la loro comunicazione per consentir loro poi di partire nel pomeriggio. Ringrazio il professor Signore per le parole di presentazione, il professor Penso mi ha dato l'opportunità di parlare in questo convegno, che mi sembra stia riuscendo molto interessante, e io parlerò sul tema del sacro in Heidegger e la mia relazione si compone di due parti, una prima parte in cui ricostruisco la concezione heideggeriana del sacro attraverso gli scritti di Heidegger su Hölderlin, non soltanto le Erläuterungen su Hölderlins Dichtung, ma anche le Vorlesungen sulle Hymnen, e poi una seconda parte in cui propongo un accostamento fra la concezione heideggeriana del sacro e alcune forme di fenomenologia della religione, e poi una brevissima conclusione. Quindi questo è il programma, spero che in una mezz'ora o poco più riesca a svolgerlo. Come è noto, se si prescinde dalla conferenza Phenomenologie und Theologie, e ora ormai da qualche mese potremmo anche aggiungere la sezione dei Beiträge sull'ultimo Dio, sul Der letzte Gott, no? Mancano nell'opera heideggeriana trattazioni tematiche su questioni attinenti alla filosofia della religione, mentre emerge in primo piano il problema ontologico del superamento dell'ontoteologia, concepita come momento strutturale della metafisica. Ciò non significa però che Heidegger si limiti a tacere sulla dimensione del sacro, del divino, del religioso, bensì soltanto che egli ne parla prevalentemente in un contesto che sembra, a prima vista, appartenere alla sfera estetica o poetica. Del resto, per Heidegger, la poesia, la Dichtung, possiede una capacità di approfondimento ontologico che è diversa ma non inferiore a quella del pensiero essenziale, cosicché non è possibile ridurla a semplice esperienza vissuta o ad espressione di risonanze sentimentali, e tantomeno quindi a un settore della cultura estetica. Cioè, come è noto, Heidegger non ha un concetto estetizzante della poesia, per questo appunto l'interpretazione degli inni di Hölderlin è rilevante per il problema, che è poi anche un problema ontologico del sacro. In questa prospettiva, le lezioni heideggeriane sulle Hymnen di Hölderlin, tenute tra il 34 e il 42, ampliano il quadro interpretativo già noto attraverso le Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung. Cioè, che ampliano il quadro interpretativo già noto attraverso le religioni, acquisono una rilevanza non secondaria per quanto concerne una riflessione sul religioso nell'età del compimento della metafisica. Per Heidegger, Hölderlin non è solo un grandissimo poeta, ma anche un grande pensatore, poiché la poesia non è gioco o rielaborazione del vissuto, ma raccoglimento del singolo nel fondamento della propria esistenza e quindi fondazione della storia in quella dimensione essenziale in cui essa assume una connotazione religiosa. Hölderlin ha fondato un'altra storia, altra rispetto al mero affaccendarsi nella situazione, una storia che inizia con la lotta per la decisione sull'avvento o la fuga del Dio. Non solo Hölderlin fonda la storia, come in genere la poesia in cui l'essere si porta al linguaggio che è poi il fondamento della vita storica di un popolo o l'essenza originaria dell'uomo storico, ma è anche il poeta che ha esperito la storicità, poiché afferma che il Dio stesso è tempo e parla del Dio che non è null'altro che tempo. E Heidegger fa osservare che esperire la storicità significa rinunciare all'eternità come eterno presente, come nunc stans o eternitas, oppure come sempiternitas, cioè come l'ininterrotto e inarrestabile procedere del tempo. Entrambi questi concetti di eternità derivano dal pensiero antico o da quello cristiano e dipendono da una concezione del tempo come puro trascorrere dell'ora nella successione. Questa è un'espressione di Heidegger che è tipica della metafisica. La storia che Hölderlin ha poetato è quella di una fine e di un tramonto che però implicano anche l'apertura di nuove possibilità. Cito un passo di Heidegger: il poeta esperisce poeticamente, il poeta sarebbe Hölderlin, un creativo tramonto dell'attuale verità dell'essere, science scritto con la Y, vale a dire che nella dissoluzione lo affascinano e lo dominano ciò che è giovanile e le nuove potenze. Fine della citazione. Il tempo storico di Hölderlin è quello in cui viene esperita l'assenza, fail, del divino nell'esperienza storica. La sua poesia ci pone di fronte alla decisione che riguarda la possibilità che l'esistenza storica di un popolo sia fondata su un'esperienza originariamente unitaria del riferimento agli dèi. Tuttavia, tale assenza non va intesa come semplice mancanza o imperfezione, così come l'ateismo non è la semplice perdita di qualcosa che prima si possedeva, bensì una condizione in cui la dimensione della divinità rimane vuota e oscura, il che però non esclude nuovi incontri col divino. Pertanto, l'intonazione affettiva fondamentale della poesia di Hölderlin è la sacra mestizia per gli antichi dèi che sono fuggiti, che però non scade mai a disperazione. Cito: la mestizia, dice Heidegger, non sta sospesa nel vuoto, poiché proprio essa, come apparirà successivamente, fonda un nuovo rapporto a Dio. Hölderlin ha pensato dunque poeticamente il destino storico del popolo tedesco nel quadro della storia dell'Occidente come storia della metafisica. Il contenuto della poesia di Hölderlin è che gli antichi dei sono morti e i nuovi si avvicinano. Ci si può chiedere quindi che cosa ne sia in questa situazione storica della tradizione religiosa dell'Occidente, cioè del cristianesimo. In primo luogo bisogna tenere presente che Heidegger rifiuta ogni interpretazione cristiana, che ce ne sono state anche interpretazioni cristiane, degli inni di Hölderlin. Cito: di recente, egli fa osservare, è diventato una moda interpretare come svolta verso il cristianesimo il presunto distacco di Hölderlin dalla grecità nel senso di un rivolgersi alla patria. Ciò conduce, come già il passo sopracitato mostra, completamente fuori strada e fa parte dell'apologetica che oggi è diventata tanto abile da parlare solo nella lingua di Nietzsche. Fine della citazione. È vero che nel periodo degli inni Hölderlin si orienta verso temi cristiani, parla di Cristo e della Madonna nel quadro di un nuovo rapporto ai greci e di un rinnovato interesse per l'elemento patrio tedesco. Però da tutto ciò non si può arguire, secondo Heidegger, una rinnovata adesione al cristianesimo. Cito un altro breve passo: la svolta verso ciò che è nazionale non è la fuga del cristianesimo. Nei limiti in cui si parla di Cristo, questi è solo uno fra gli dèi, un modo di pensare che in verità non può essere detto cristiano. Fine della citazione. Il problema che Heidegger impone nella crisi estrema messa in atto dal pensiero della modernità va al di là del cristianesimo. Ciò che è in questione e che richiede una decisione, una Entscheidung, non è la persistenza della religiosità tradizionale, ma, in modo più radicale, la possibilità stessa per l'esistenza storica di mantenere un collegamento essenziale col divino. L'esistenza dell'uomo occidentale è esposta ad un abisso e il sussistere del cristianesimo e della Chiesa non toglie pericolosità a questo rischio. Heidegger fa osservare che per Hölderlin il sacro viene raggiunto in uno stato di ebbrezza, caratterizzato dall'elevatezza dello stato d'animo, che però non è in contrasto con la lucidità del pensiero e che proprio per questo si differenzia dall'ebbrezza, dal rausch dionisieco di Nietzsche, che un abisso separa, secondo Heidegger, da Hölderlin. In generale, la distinzione hölderliniana di apollineo e dionisieco non coincide con quella nietzscheana. Cito, io queste mie citazioni sono tratte quasi per la totalità dalle tre Vorlesungen Heideggeriane sulle Imne di Hölderlin. La distinzione di Nietzsche e il suo ruolo nella metafisica della volontà di potenza non è greca, bensì affonda le sue radici nella metafisica moderna. La distinzione di Hölderlin invece dobbiamo imparare a comprenderla come prodromo del superamento di ogni metafisica. L'ebbrezza nel senso di Hölderlin non appartiene alla sfera dell'irrazionale, dell'istintivo, dell'inconscio, che è ancora un concetto metafisico. Essa invece affina a quello stato d'animo di disponibilità per lo straordinario e per l'inconsueto che caratterizza lo spirito della festa come accadimento del sacro, come incontro degli uomini e degli dèi. In tale incontro o reciproco corrispondersi, Entgegnung, svolgono una funzione essenziale i poeti che, come gli altri creatori di storia nell'ambito del pensiero e dell'azione, sono i mediatori che costituiscono il centro fra l'uomo e il divino e che Hölderlin chiama anche semidei, Halbgötter. Siamo ben lontani però dal concetto cristiano di mediazione, perché i semidei sono di essere finito, mentre il Cristo, fa osservare Heidegger, è consubstantialis patri o homo usios to patri, e cioè essenzialmente uguale al padre e quindi non finito. Piuttosto i semidei e i poeti stanno sotto il segno di Dioniso, il cui simbolo, la maschera, allude all'originaria relazionalità reciproca dell'essere e del non essere, presenza e assenza. Poiché poi Heidegger ricollega alla visione dei greci la concezione secondo la quale il nascondimento e il mistero appartengono alla verità dell'essere stesso, che ha quindi in sé il negativo, il male, das böse, sia pur non in senso morale, che fa davvero l'apparire del sacro, e distingue con ogni cura tale visione tragica dal cristianesimo, si potrebbe pensare che la lettura heideggeriana di Hölderlin miri in ultima analisi a contrapporre una religiosità di tipo tragico dionisiaco a quella tradizionale cristiana, nel contesto di una sorta di ritorno ai greci. Però Heidegger fa osservare che se non si può interpretare Hölderlin mediante la teologia cristiana, non lo si può nemmeno spiegare ricorrendo alla mitologia greca, anche perché tali tentativi interpretativi si servono delle categorie usuali del pensiero occidentale, cioè sono ancora interpretazioni di tipo metafisico, e neanche si può ritrovare negli inni di Hölderlin una visione immanentistica da contrapporre alla trascendenza cristiana, perché con tale contrapposizioni si rimane pur sempre nell'ambito della concettualità metafisica, come è capitato a Nietzsche, che ha semplicemente rovesciato lo schema metafisico platonico della distinzione fra mondo vero e mondo apparente. La questione decisiva invece sta nel non lasciarsi sfuggire che la poesia degli inni di Hölderlin cade al di fuori di ogni metafisica e che pertanto appartiene al futuro e fonda un nuovo inizio rispetto alla metafisica che celebra il suo trionfo sotto la forma di tecnica nell'epoca delle macchine, mentre il cristianesimo agisce ormai soprattutto in forma secolarizzata o addirittura rovesciata. In ogni caso, il sacro di Hölderlin non è identificabile, secondo Heidegger, col divino di una religione storica determinata. Cito: ma questo sacro non è semplicemente il divino di una religione parimenti sussistente, in questo caso di quella cristiana. Il sacro non si può in generale stabilire teologicamente, poiché ogni teologia già presuppone lo Zeos, il Dio, il che è tanto certo che sempre là dove compare la teologia, il Dio ha già iniziato la sua fuga. Insomma, la teologia è qualcosa di derivato, nel senso che ha dei presupposti, mentre il sacro, come Heidegger afferma nell'Erläuterung zu Hölderlins Dichtung, è l'immediato, das Unmittelbare, che è al di sopra degli uomini e degli dèi, poiché questi hanno sempre bisogno di una mediazione, sono cioè alla ricerca del mediato, in cui soltanto appare l'immediato che non è dato immediatamente né agli uomini, né agli dèi, né agli uomini. Dèi e uomini sono nella mediazione reciproca, nella Entgegnung, sono potremmo dire correlativi, in quanto non solo gli uomini hanno bisogno degli dèi, ma anche questi hanno bisogno degli uomini per apparire. Quindi il sacro appunto è l'immediato che viene colto in uno stato di ebbrezza. Questo mi sembra che può essere un primo risultato di questa trattazione sul sacro in diretta attraverso l'interpretazione degli inni di Hölderlin. Heidegger, seguendo Hölderlin, parla di dei, però c'è anche una distinzione fra Dio e gli dei che si trova appunto in queste lezioni su Hölderlin, no? Hölderlin stesso distingue fra gli dèi, che vengono denominati anche celesti o angeli, e il sommo Dio, il padre etere. E anche il discorso di Heidegger non è privo di ambiguità, poiché ammette che un Dio possa non aver bisogno della mediazione, che è invece richiesta dalla finitudine dell'uomo. Quindi gli dèi hanno sicuramente bisogno della mediazione, non solo gli uomini, però non il sommo Dio, non Dio, diciamo. Ora, cito, noi uomini non possiamo mai dare inizio con l'inizio, Anfang. Questo lo può solo un Dio. Bensì dobbiamo cominciare, cioè prendere le mosse da qualcosa che conduce all'origine o la mostra. Quindi in questo passo si fa l'ipotesi che un Dio possa, vero, cogliere l'immediato, ciò che l'uomo non può fare, ecco, un Dio che non ha bisogno della mediazione. Ecco, mi sembra che qui si delinea una differenza tra Dio e gli dèi. Dio è qualcosa di diverso, non solo dagli uomini, ma anche dagli dèi. Rimane allora almeno aperta, questa è la domanda che mi pongo, la possibilità che il sacro, che è superiore non solo agli uomini, ma anche agli dèi, si configuri e o giunga ad apparire come il sommo Dio nel senso dal punto di vista delle regioni storiche del monoteismo. Ecco. Ora, questa è la domanda che io mi pongo. Heidegger nei Beiträge, nella sezione sull'ultimo Dio, dice che l'ultimo Dio è al di là di queste distinzioni di panteismo, teismo, monoteismo, ateismo e così via. Però anche questo ultimo Dio potrebbe essere visto come unico, proprio in quanto ultimo, estremo, ecco. Quindi non è che poi questo problema del monoteismo vada proprio messo da parte come completamente irrisolto. punto. C'è comunque un'ambiguità in Heidegger. Certo è che Heidegger distingue fra Dio e il sacro, non solo però perché il sacro non può mai diventare oggetto e quindi non è definibile o determinabile, ma anche perché nella situazione storica in cui mancano i sacri nomi, il Dio non appare. Cito un passo: il sacro si appare, ma il Dio rimane lontano. Il tempo del ritrovamento tenuto in serbo è l'epoca in cui il Dio manca. Quindi c'è un'ambiguità di Heidegger su questo rapporto fra Dio e il sacro, e questa questione del rapporto fra Dio e il sacro è stata trattata da diversi interpreti del pensiero religioso heideggeriano, e alcuni proprio in base a considerazioni su questo rapporto hanno sostenuto che non è possibile dare una lettura religiosa di Heidegger, dove per religiosa si intende appunto una lettura che veda Heidegger almeno aperto alla possibilità di una trascendenza, no? Ecco. Quindi non pochi interpreti Heidegger insistono proprio sulla superiorità del sacro rispetto a Dio e al divino. Così, per fare un esempio di questi interpreti, Jean Grace ha messo in dubbio la possibilità di una lettura religiosa del sacro heideggeriano, argomentando sulla base di tale superiorità, cioè del sacro rispetto a Dio, e suggerendo la vicinanza di esso, cioè del sacro heideggeriano, all'esperienza greca del divino. Il Dio che salva, scrive Grace, in riferimento alla nota affermazione di Heidegger, nur noch ein Gott, che non si retten, è il Dio che fa segno, che saluta, come se per la prima volta fossimo invitati o abilitati a pensare un Dio che non parla, non nasconde, ma fa segno. E questo è il frammento 93 di Eraclito, ute lechei, ute cruptei alla semaini. Quindi, insomma, questo Dio che saremmo abitati a pensare per la prima volta sarebbe appunto Apollo, quindi ci sarebbe una forma di giusità in Heidegger più vicina a quella di tipo greco, al mito greco. Anche per Jean Beaufré la questione dell'essere porta a pensare che l'antico mito greco sia più originario non solo della filosofia ma anche della fede in senso biblico, e che quindi sia almeno possibile che la luce dimenticata di esso prepari non certo l'edificazione di un anacronistico neopaganesimo, bensì una svolta ancora indecisa, quella svolta del tempo di cui parlava Hölderlin e che gli aggiungeva: se accade, accadrà in richtiger Zeit, quando i tempi saranno maturi. Effettivamente Heidegger pone in rapporto l'originario pensiero della physis come Aufgehen, discutimento, col mito di Artemide e con la nozione greca del divino. Cito un passo dalla Forlesium su Eraclito del 43. L'essenza degli dei che apparsa ai greci è proprio questo manifestarsi nel senso di rivolgere lo sguardo al familiare, di modo che ciò che si manifesta nel familiare a partire da esso è proprio lo straordinario che si offre nell'ambito del familiare. Quindi questa sarebbe la concezione del divino dei greci, cioè lo straordinario si manifesta in ciò che è familiare. A sua volta Jean Beaufré distingue il mondo greco della manifestazione da quello biblico della rivelazione e fa riferimento a Walter Friedrich Otto, che ha interpretato il divino greco sulla base della nozione di teofania. Ecco, si tratta di Walter Friedrich Otto, di cui parlava il professor Köscher, che purtroppo è dovuto andare via, sarebbe stata interessante la discussione, perché la sua tesi era che il divino di Heidegger è vicino al divino greco, quale è stato interpretato da Walter Friedrich Otto, che non è Rudolf Otto, l'autore di Das Heiligen. Quindi adesso passo a una seconda parte, che però sarà breve, più breve della prima, in cui appunto affronto questo tema della vicinanza di Walter Friedrich Otto a Heidegger. Ecco, poi brevemente tratto anche di Rudolf Otto, che ha un altro concetto del sacro. Secondo Walter Friedrich Otto, il mito non è creazione di una mera fantasia irrazionale, di una mentalità prescientifica che non sa spiegare gli eventi del mondo naturale mediante procedimenti razionali e che quindi pone alla radice di essi una volontà di tipo antropomorfico. Piuttosto la divinità del mito greco è una figura originaria in cui appare l'indicibile essere del mondo. Un Dio è l'intero essere del mondo in una peculiare rivelazione. E questo appunto è il concetto di Teofania, che poi è il titolo di una delle opere principali di Walter Friedrich Otto. Anche alla religione greca appartiene quindi una forma di rivelazione, se con essa si intende l'apparire dell'essenza profonda della realtà, che assume una figura nella creazione artistica e nella parola poetica. Tale Offenbarung, rivelazione, accade tramite le muse, cioè, che sono il luogo in cui i greci hanno avuto l'illuminazione religiosa, cioè l'illuminazione religiosa attraverso l'arte avrebbero avuto i greci. Ciò non significa però che il mito abbia soltanto una valenza estetica, bensì in esso si realizza e si manifesta un'esperienza originaria che sta alla base dello stesso pensiero logico-discorsivo. Il mito, firma Otto, non può essere confrontato con nulla di razionale, ma può essere compreso solo come visione globale, originariamente fenomenica o come rivelazione. Quindi nel mito ci sarebbe un sapere immediato sull'apparire del mondo che non è inferiore al sapere razionale, logico, discorsivo, anzi sta alla base del sapere logico, discorsivo. Ecco, questa è la concezione del mito di Otto, in base a cui egli poi interpreta il mito greco, il divino greco. Esso richiede quindi un concetto di verità che si sottrae alla presa del pensiero logico e della sperimentazione e che si attua come automanifestazione. Cito: appartiene all'essenza di questo vero che esso sia creativo, che si debba presentare nella figura. Ecco, il concetto di figura è un concetto fondamentale di questa teoria del mito di Otto, appunto perché la figura è essenziale alla manifestazione del mondo, alla teofania. Sulla base di questa interpretazione del mito del divino greco, Otto rivolge poi alcune critiche di fondo al concetto di sacro della fenomenologia della religione di Rudolf Otto. E qui prego di non fare confusione, perché purtroppo sono omonimi quanto al cognome ma non quanto al nome, perché Walter Friedrich è questo teologo del divino greco, mentre Rudolf Otto è il famoso fenomenologo della religione e poi anche dal punto di vista teologico è orientato in senso molto diverso, perché era un teologo cristiano e un protestante. Ecco. Quindi Otto, Walter Friedrich, rivolge alcune critiche alla fenomenologia della religione di Rudolf Otto, contestando che il divino sia da collocare nella dimensione del totalmente altro. Cito un passo di Walter Friedrich Otto: il divino in cui l'uomo avverte di essere protetto non è quel totalmente altro, ganz andere, nel quale si rifugiano coloro per i quali la realtà del mondo è completamente sdivinizzata. Esso è invece proprio ciò che ci circonda, in cui viviamo e respiriamo, che ci conquista e che diventa figura nella chiarezza dei nostri sensi e del nostro spirito. Esso è presente dappertutto. Tutte le cose e i fenomeni parlano di esso nella grande ora in cui parlano di se stessi. Ed essi non parlano di un creatore o signore, bensì dell'eterno essere che si rivela in essi nel modo della figura. Ritroviamo qui quella concezione del divino greco come manifestazione dello straordinario nel familiare, nel quotidiano, di cui si è detto a proposito della Forlesung Heideggeriana del 43 su Eraclito. Quindi forse può darsi anche che Heidegger conoscesse, è probabile, gli scritti di Walter Friedrich Otto. Il timore di Walter Friedrich Otto è che la concezione del divino come totalmente altro finisca per ridurre la figura a qualcosa di esteriore e di accidentale. Quindi in questo caso appunto questo comporterebbe una svalutazione del divino greco, che invece è proprio incentrata su queste figure di dei che appaiono nella poesia, nell'arte, e che rivelano un aspetto essenziale del mondo. Quindi cito un passo di Otto su questo problema del totalmente altro. Oggi si inclini a ritenere, gli scrive, che il divino possa essere esperito soltanto in una misteriosa commozione che consente all'assolutamente non intuibile e non pensabile di diventare esperienza vissuta interiore. E noi ci lasciamo convincere che questo sia stato fin dall'inizio l'accesso all'autentica esperienza del divino. E qui Rudolf Ott, Walter Friedrich Otto si riferisce esplicitamente a Das Heilige di Rudolf Otto. Mentre il mito, con le sue figure e i suoi processi antropomorfici, significherebbe una esteriorizzazione e falsificazione del vero. Fine della citazione. Rudolf Otto interpreta l'esperienza religiosa sulla base del modello della mistica. Però, fa osservare Walter Friedrich Otto, la mistica subentra proprio quando è venuta meno la vicinanza del divino e si è quindi instaurata l'insicurezza rispetto ad esso. Questa è appunto una critica che Walter Friedrich Otto muove al sacro di Rudolf Otto. Ci troviamo quindi in un ambito di problemi che concernono la fenomenologia della religione, però non ci sembra che essi siano estranei al nostro tema. Del resto, anche per Otto Pögler, un eventuale dialogo fra Heidegger e la teologia deve ritornare proprio a quei problemi della fenomenologia della religione che furono discussi negli anni 20 fra Rudolf Otto, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Accendiamo quindi brevemente alla nozione di totalmente altro in Das Heilige di Rudolf Otto. Il luminoso può essere, che poi questo è un concetto tipico di Rudolf Otto, come voi sapete, il luminoso può essere detto totalmente altro in quanto è il mirum, vale a dire ciò che è straordinario e che quindi suscita meraviglia, appartenente ad una sfera diversa da ciò che è usuale, comprensibile, familiare. Quindi questo è il primo significato del totalmente altro, secondo questa volta non Walter Friedrich, ma Rudolf Otto. Un secondo significato di totalmente altro è quello che è presente nella mistica, la quale contrappone l'oggetto luminoso non solo all'ente, ma anche all'essere, e quindi lo esperisce come nulla, sottolineando così l'incomprensibilità e la trascendenza rispetto alle nostre categorie. Quindi, come è noto, poi Rudolf Otto ritiene che la mistica sia non un fenomeno collaterale per la religione, ma sia proprio l'essenza della religione, cioè la religione vista nella sua forma estrema ma anche più pura. Quindi si capisce come Rudolf Otto insista proprio su questo concetto del totalmente altro come del ganz andere come attributo del sacro, cosa che invece non sta bene, non è accettata da Walter Friedrich Otto. Adesso mi pongo appunto il problema è se Heidegger sia più vicino all'uno o all'altra concezione del sacro, e la mia tesi è questa, opposta a quella del professor Köschler, che in realtà sostanzialmente Heidegger è più vicino alla concezione di Rudolf Otto, appunto perché fa uso di questa nozione di totalmente altro. Infatti nei Beiträge cioè si dice der ganz andere zumal gegen die gewesen zumal gegen den christlichen, gegen den christlichen, vabbè, der ganz andere proprio introduce questa attenzione. Quindi a me sembra che sostanzialmente io non sarei d'accordo con la tesi che sosteneva ieri il professor Köschler, no? Su questa vicinanza proprio tra Heidegger e il sacro di Heidegger e la concezione del divino greco quale è stata interpretata da Walter Friedrich Otto nei suoi scritti, soprattutto Teofania, poi anche altri scritti, no? A me sembra che sostanzialmente Heidegger sia più vicino a Rudolf Otto. E perché questo? Appunto per questa nozione totalmente altro. Ora, come è noto, questa nozione totalmente altro non è strana a Heidegger, anzi essa è essenziale al pensiero della differenza ontologica, come appare da una pagina di Zur Seinsfrage, dove il nulla viene pensato come das ganz andere zum Seienden, è come un nulla non meramente negativo, ma interno all'essere stesso in quanto differente dall'ente. Ci sembra quindi che Heidegger, proprio in virtù di questa nozione di totalmente altro, sia sostanzialmente più vicino alla teorizzazione del sacro di Rudolf Otto che non alla riscoperta della valenza ontologica della figura nel divino greco, quale è stata sostenuta da Walter Friedrich Otto. È vero che in Rudolf Otto rimangano dei residui di soggettivismo che trovano espressione nella concezione della categoria del sacro come categoria a priori in senso kantiano. Però il sacro non è per lui soltanto una dimensione interiore, bensì anche manifestazione storica, cioè quindi anche Rudolf Otto, cioè questa concezione dell'erscheinung, dell'apparire del sacro, no? Di teofania, diciamo. Però c'è anche quella di Ganz Andere. Comunque, con questo accostamento del sacro cui conduce la Seinsfrage heideggeriana al sacro di Rudolf Otto, non si vuol sostenere un'interpretazione in senso mistico o cristiano del pensiero heideggeriano. Infatti, della nozione di totalmente altro, Heidegger si serve per pensare la sacra notte dell'assenza di Dio, un'assenza che però non è nulla. Anche nella poesia di Hölderlin, egli ha trovato in primo luogo un linguaggio, come ha fatto osservare Gadamer, per dire una dimensione religiosa o del divino che è soprattutto assenza, sottrazione, mancanza, il fehl Gottes. E mi sembra che questa concezione si rappresenta anche nei Beiträge, che c'è un passo, sempre quella sezione sul der letzte Gott, perché in un passo Heidegger dice, questa sezione, che l'ultimo Dio è vicino, la vicinanza, la nähe dell'ultimo Dio si realizza solo nella Verweigerung, cioè nel rifiuto. Quindi sostanzialmente non mi sembra poi che questa, nella sostanza, anche se Heidegger stranamente ha taciuto questa figura concetto di der letzte Gott, però sostanzialmente non mi sembra che la posizione di Heidegger sul sacro, sul divino, che può essere conosciuta attraverso le opere pubblicate prima oppure anche pubblicate da Heidegger stesso o pubblicate prima dei Beiträge, mi sembra che sostanzialmente poi ci sia qualcosa di diverso, non so, ma ci sono persone qui molto più esperte di me su questi Beiträge, che io ho letto ancora in modo non troppo sistematico. Se il professor Regina penso che ne parlerà nella sua relazione, e anzi quindi io non voglio sottrarre ulteriore tempo, no? Solo una brevissima conclusione sul problema di Dio. Heidegger mantiene desto nella Sacra Notte l'interrogare del pensiero che egli ha portato fino all'estremo, cosicché, come dice ancora Gadamer, cito un breve passo, una frase di Gadamer, né un Dio dei filosofi, forse nemmeno un Dio dei teologi, qui Gadamer dice forse nemmeno un Dio dei teologi, può essere una risposta. Questo interrogare non è però un vuoto problematizzare, bensì il modo di, questo cito un passo di Heidegger, di rimanere da una delle lezioni sulle Himmeln di Hölderlin, è un modo di interrogare, di rimanere desto per il sacro, che la notte racchiude in sé nel modo della preparazione. Nella sezione sull'ultimo Gott, no, si parla dei zukünftigen des letzten Gottes, no, dei futuri dell'ultimo Dio, si parla della Vorbereitung, della preparazione del passaggio des Vorbeigangs des letzten Gottes. Sostanzialmente appunto sono concetti che si ritrovano anche in altri scritti heideggeriani, quindi il pensiero di Heidegger mi sembra che sia soprattutto di tipo negativo, non voglio dire apofatico, appunto è un'esperienza religiosa dell'assenza, della mancanza di Dio nell'età della secolarizzazione. Grazie. Ringraziamo il professor Pietro De Vitis per questa sua relazione, d'altra parte risultato di una consolidata sensibilità e di una palese competenza sui temi affrontati.